Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ben ritrovati anche quest'oggi sulle frequenze di Rock FM. Giulio Caperdoni, in vostra compagnia come tutti i giorni fra le 19 e le 20 con Eclettica, in una settimana che vedrà il cambio di film in corsa. Da un giorno con l'altro ve ne accorgerete, anche perché cambieremo lingua e che vede diversi autori che ci tengono compagnia con i loro incipit. Cadeva la neve, sfarfallando e svolazzando come un fitto sciame di candidi coriandoli, danzando, soffice e leggera come piume di cigno, indugiando un attimo sospesa fra terra e cielo, confondendosi nell'argento trasparente dell'aria e posandosi, infine, sul cristallino bagliore dell'immensa distesa di spuma. Se il gelido vento del nord, che sollevava passando raffiche rabbiose di nevischio con il suo alito possente, non avesse fatto curvare verso di noi la testa verdastra di un gracile cipresso abbandonato, e se per il cielo d'alluminio, più bianco della neve che scendeva tremula e ondeggiante, non fosse di quando in quando passato un triangolo grigio e compatto di starne dai rauchi e tristi richiami, avremmo potuto credere di trovarci sperduti in un nordico deserto desolato. Questo era l'incipit di Rivalità selvaggia, da Maschere, racconti di paese e di città, di Silvio D'Arzo. You've been taken to paradise. Only in dreams can it feel this way. I'll be waiting on you by the feeding the swans and wondering why. Someone's gonna miss you when you're gone. Try to catch you in the greenest field. Swans and wondering why. government has realized that putting you inside this dome was a terrible mistake. Therefore, we're commencing with Operation Soaring Eagle. Yeah! Which involves killing you all. Bella la tromba della canzone iniziale, vero? Morriconiana, come già ho detto la prima volta che vi ho presentato i 13 Ghosts, formazione di Birmingham, Alabama, in uscita il 18 di marzo su Sky Bucket Records con un album dal titolo The Strangest Colored Lights, dal quale ho estratto Riverside. Poi invece Blood on the Wall, uno dei nomi che penso da qualche mese si ritrovi tutte le settimane all'interno delle playlist di Eclettica, questa volta con Sorry Sorry Sarah. Per passare ora ad un gruppo, stavo per dire italiano, ma ormai sono un gruppo internazionale a tutti gli effetti. E voglio fare anche un po' di memoria storica, ricordi di Eclettica. Metà anni 90 c'era Demolition, si ascoltavano le autoproduzioni dei gruppi italiani e mi ricordo quella sconclusionata telefonata con un simpatico Appino, allora assolutamente sconosciuto, che parlava del disco autoprodotto che stavo trasmettendo e che ci raccontava di come i Zen Circus, perché è di loro che sto parlando, della band pisana, di come i Zen Circus provassero in un sottopassaggio, non avendo una sala prove. Questo vuole essere un po' il sunto molto veloce di una telefonata molto, molto strana, di un'intervista telefonica molto strana. Metà anni 90, frequenze di Rock FM all'interno di Demolition, che non esiste più in Eclettica. The Zen Circus che escono con un nuovo album che li vede mettere assieme molti nomi storici del rock e molti nomi che fanno parte dell'immaginario dei Zen Circus, a cui facevano sempre riferimento nelle loro interviste, nei loro riferimenti espliciti, e con cui ora si ritrovano a incidere un disco che viene pubblicato in tutto il mondo dalla Unhip Records. The Zen Circus assieme a Brian Ritchie e nel brano in questione anche le due sorelle Deal, Kim Deal e Kelly Deal. Si tratta di Punk Lullaby. His milk is tall, skinny, got hands petite and clean. He's a kind of girl. He looks so much younger, sort of Dorian Gray. He's a kind of girl. lullaby. Marek, vedovo, da che la moglie gli era stata sepolta nella valle assieme ai vecchi amici carrettieri, non metteva più piede nella strada, benché né ricordi o particolari pene o nostalgia lo tenessero chiuso in quel suo andito dall'odore di notte o acqua notturna. «Ehi, ehi!» gli andavano gridando qualche volta di giù i vecchi compagni, e uno magari portava lettere o pacchi nei cortili, magari uno teneva in mano una scopa antica e dura per aiutare il volo delle foglie. «Ehi, ehi! Mi sembra che Marek Vedovo ora esageri!» Questo era l'incipit de L'Osteria di Silvio D'Arzo. Yeah. miss your father. Me too. His big fat ass could shield us all. Walks amongst you all, you tired human beings. He's got all the things a cripple has not, two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, exactly the same. Well, you must be a masochist. Love a modern laugher on his last leg. On his last leg. Crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through the lies. Oh, well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stay scared. So I cut all the good stuff, yeah, I cut my food. Eclettica, di cui vi state ascoltando la prima parte di quest'oggi, va in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20, ma questo orario non vuole essere una costrizione, in quanto esiste la possibilità di decidervi un altro giorno e un'altra ora, un altro tipo di ascolto, magari mettendo assieme più giornate oppure suddividendo una giornata in più momenti di durata inferiore. Tutto questo grazie al podcasting, di cui trovate i dettagli su RadioRockFM.com, ma soprattutto su myspace.com/eclettica, non perché io preferisca il secondo di questi due siti perché lo gestisco direttamente, ma perché su questo sicuramente i dettagli sono maggiori. Me ne sto rendendo conto da email che mi arrivano nelle ultime settimane, che segnalano problemi nella comprensione di quello che è scritto sul sito istituzionale della radio, per cui ho chiesto delle modifiche e spero che nelle prossime settimane vengano fatte. Comunque, in ogni caso, avete a disposizione anche Giulio @radiorockfm.com per fare domande esplicite nel caso abbiate problemi con il podcasting. Giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo da utilizzare per iscriversi alla lista nera di questa trasmissione, lista nera che non è nient'altro che una mailing list. Indirizzo giulio@radiorockfm.com che invito ad utilizzare anche per scrivermi quelli che sono i vostri pensieri, le vostre parole, che poi posso utilizzare anche in trasmissione, come quelle di Gianni, che ci scrive da Napoli. E a proposito delle mie letture di Tiziano Terzani di pochi giorni fa, mi dice: l'ho letto proprio 2 stati fa, è l'unica cosa che riuscii a leggere in 3 mesi, un record, in un periodo molto duro, persino da raccontare. Anche a me diede molto e continuo a portarlo con me. Grazie di avermelo ricordato. Hai notato quanto un momento, un dolore, sia condizionato nei ricordi da ciò che passa in quei giorni alla radio, persino come spot televisivi, e quanto differente sia la percezione del dolore quando questo dolore riemerge attraverso l'arte. Non so tu, ma mi sa di più consolatorio. Vi ripeto, questo era Gianni, da Napoli. E per quanto riguarda quanto ci siamo ascoltati, vi voglio ricordare che l'ultimo pezzo era The Modern Leper da parte dei Frightened Rabbit, e prima ancora Lovers and Liars invece del duo To Kill a Petty Bourgeoisie. Un altro duo, questo è un duo italiano all'esordio, loro si chiamano modestamente Il Genio. Sono Gianluca De Rubertis, già tastierista degli Studio Davoli, e Alessandra Contini. Il Genio, che escono per Disastro Records, la nuova etichetta della storica Cramps, il 21 di marzo 2008, primo giorno di primavera, con un EP contenente 4 tracce, la prima delle quali si intitola Pop Porno.